Un bacio nell'incavo del ginocchio, un fruscio di falena alla zanzariera. Sì, amore mio, un puntino luminoso sull'ecometro è campanellino con la tossetta. E due volte perderò l'onore e le stelle saranno confitte come puntine nella notte, sì. Oh sì, sì, sì, due chioccioline all'incavo del ginocchio che accendono falò simili a ciglia che sfregano, sì, sì, sì, come pietrina d'accendino piccolo.